Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. L'Italia non è un paese normale, perché l'Italia non sarà mai un paese normale. Guardatemi, guardatevi, non siamo un paese normale. Siamo un paese speciale, nel bene e nel male. Però io credo che se facciamo queste cose l'Italia tornerà a essere un paese attrattivo. Non mi interessa riprendere i cervelli in fuga, non tornate indietro, andate avanti, cambiate il mondo, ma insieme a tutti voi vorrei rendere questo paese talmente bello e semplice da avere voi la necessità di tornare a casa, perché casa vostra non sarà il luogo del passato, ma del futuro. Oggi in apertura le parole del premier Matteo Renzi dalla Silicon Valley nel corso dell'incontro di lunedì scorso con le startup italiane. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi restate con noi, vi racconteremo come lasciare l'Italia per lavoro sfruttando i programmi europei. La frase della settimana è copyright del presidente di Google, Eric Schmidt, ed è perfettamente in linea con la nostra apertura ad alto tasso innovativo. L'Italia ha una disoccupazione giovanile al 40% che dimostra un fallimento delle politiche. Un modo per affrontare questo problema è far recepire le abilità a livello digitale, incoraggiare i giovani in questo senso. Occorre individuare i settori a cui agganciarsi per la crescita, ha detto Schmidt, aggiungendo: è ora di svegliarsi. Intanto ci informa la Fisac CGIL, il salario netto mensile medio di un lavoratore italiano nel 2013 è stato pari a 1.327 euro, ma a restare sotto la soglia dei 1.000 euro sono tra i 6 e 7 milioni di persone, in particolare giovani. Un neolaureato precario oscilla tra gli 800 e i 1.000 euro fino a 35 anni. Se un giovane degli anni 70 guadagnava il 10% in più rispetto alla media nazionale, negli anni della crisi ne porta a casa il 12% in meno. E secondo la Fondazione Bertelsmann, la crisi ha acuito l'ingiustizia sociale. L'Italia è uno dei paesi più colpiti, al 23° posto della classifica europea. Pesa molto la questione giovanile, così le valigie per la Gran Bretagna sono sempre pronte. L'Italia si conferma, ma è un paese poco interessato a investire sui giovani e a scommettere sul loro futuro. Diciamo che nel nostro paese non c'è posto per i giovani d'oggi preparati e ambiziosi, proprio perché manca l'interesse verso una loro crescita professionale. Michela Franzoi, 30 anni, è Events Officer al King's Theatre di Portsmouth in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Sono oltre 3 milioni i ragazzi che pensano sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero dopo la scomparsa di oltre 2 milioni di posti di lavoro per under 35 tra il 2004 e il 2013. Negli ultimi 10 anni il tasso di occupazione dei 18-34 anni è diminuito di 12 punti percentuali al 46%. Secondo il Censis, la sparizione di così tanto lavoro fra i giovani è costata al nostro paese oltre 152 miliardi in termini di mancata creazione di valore economico. I talenti in fuga non sono più solamente giovani, con la crisi pure i quarantenni e i cinquantenni fanno le valigie alla ricerca di lavoro, lo sostiene la CNA sulla base di uno studio dedicato alle nuove emigrazioni. In 6 anni di crisi dall'Italia sono emigrate 620.000 persone, quasi il doppio rispetto ai 7 anni precedenti, afferma la CNA. L'aumento degli espatriati con un'età tra i 40 e i 49 anni è stato pari al 79%, nella fascia 50-64 anni la crescita ha toccato il 51%. Dal sud si parte e si fanno meno figli, indica il rapporto Svimez 2014. In 10 anni sono emigrate dal mezzogiorno verso il centro-nord oltre 1,5 milioni di persone, di cui 188.000 laureati. Un falò dei cervelli: tra il 2003 e il 2013 l'università italiana ha formato 68.000 ricercatori e ne ha assunti solo 4.500, il 6%. Nel mezzo borse di studio da fame, lavori gratis con l'ansia del rinnovo del contratto, poche o nessuna garanzia di svolgere alla fine un lavoro. La fotografia l'ha scattata la Fiele CCGL all'interno dell'indagine Ricercarsi. Bicchiere mezzo pieno per il programma Master and Back della regione Sardegna. Secondo il quotidiano L'Unione Sarda, il piano, varato 8 anni fa, ha riguardato oltre 4.000 progetti e quasi 120 milioni di euro distribuiti agli studenti sardi. Stando a una prima valutazione, il neo principale del progetto è che il 53% dei giovani che l'hanno utilizzato sono poi rimasti all'estero o comunque fuori dalla Sardegna. 2.000 cervelli in fuga. Positivo però l'impatto occupazionale: il 63% dei partecipanti si è dichiarato al lavoro. E parliamo ora di un programma analogo, Torno Subito, promosso dalla Regione Lazio con l'obiettivo di formare giovani in territorio nazionale o internazionale e farli poi tornare valorizzandone competenze e risorse nell'ottica dello sviluppo regionale. Il primo bando si è chiuso a maggio, questa estate il primo bilancio. Ai nostri microfoni il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio. A noi pare che sia andata molto molto bene, anche al di là delle più rosee aspettative. 500 ragazzi Molti stanno con le valigie pronte. Spieghiamo dove andranno questi ragazzi a fare cose indicativamente. Il 52% ha scelto di andare nel mondo. Nel mondo voglio dire Gran Bretagna, Spagna, Belgio, Brasile, Argentina, Iran, Cina, Taiwan, Tunisia, Stati Uniti, Australia. L'altra cosa interessante è che una parte ci ha scelto anche delle eccellenze italiane che si trovano a Milano, a Salerno, Firenze e Bologna. Moltissime donne, il 63%, e il progetto era aperto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, il grosso sta tra i 25 e i 30 anni. Andranno più fuori a formarsi o a lavorare? Perché la borsa è sia per lavoro che per studio. Nel 51% dei casi andranno a fare dei master, nel 39% andranno a fare delle work experience e nel 10% hanno costruito un meccanismo misto con un invito perentorio, un patto etico che noi abbiamo proposto ai ragazzi, che ha due aspetti. Il primo, banalmente, è quello di tornare, quindi quello che hanno appreso, accumulato in termini di esperienza lavorativa, di ricerca, di studio, andrà poi per noi disseminato sul territorio della Regione Lazio. E l'altro tema è quello di sentirsi parte di una comunità, portare sulle spalle una piccola responsabilità collettiva. E cioè l'abbiamo fatti, ambasciatori del Lazio. Tutte le info su tornosubito.laziodisu.it. Il prossimo bando aprirà quest'inverno. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna per raccontarvi come i programmi europei possono cambiare la vita dei giovani italiani in cerca della meritata occasione professionale, occasione che troppo spesso stenta però ad arrivare nella penisola. Tra poco scopriremo perché. Nome: Michela. Cognome: Franzoi. Età: 30 anni. Città di origine: Verona. Studi: lingue straniere per il turismo. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra. Perché? Perché in Italia non trovavo lavoro. Qual è lavoro svolge attualmente? Coordinatrice eventi culturali. Dove? In un teatro. Tornerai? L'intenzione è proprio quella di tornare e restare in Italia per poter lavorare nel mio paese. Ma è possibile che noi giovani italiani dobbiamo essere costretti a emigrare all'estero per realizzare i nostri sogni? Ti chiedevi, Michela, pochi mesi fa scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Sarò diretto, è un problema generazionale ormai? Se sei preparato, hai studiato e aspiri a qualcosa di più di un posto precario e sottopagato, te ne devi andare? Purtroppo la risposta è già scritta nella domanda. L'Italia si conferma ma è un paese poco interessato a investire sui giovani e a scommettere sul loro futuro. Diciamo che nel nostro paese non c'è posto per i giovani d'oggi preparati e ambiziosi, proprio perché manca l'interesse verso una loro crescita professionale. Questa è una considerazione purtroppo abbastanza amara che tra poco spieghiamo meglio. La tua storia, Michela, inizia a Verona, nota città d'arte ma che in cultura impiega pochissimi giovani, come denunci tu. A Verona ti iscrivi alla facoltà di lingue e letterature straniere. Quale passione ti porta su questa strada? Sì, fin da piccola le lingue straniere mi hanno sempre affascinato e diciamo che le diversità culturali mi hanno sempre incuriosito ed appassionato, ed è da qui che è nata la mia voglia di conoscere il mondo e soprattutto poter comunicare con i loro abitanti. Ti specializzi in organizzazione degli eventi, tenete bene a mente questo dettaglio perché tornerà tra breve. Che voto dai alla formazione universitaria? Anche se il mio giudizio è circoscritto all'area veronese, purtroppo però il pollice deve rimanere verso. Corsi di fantasma preparati all'ultimo minuto perché non si riuscivano a reperire i docenti in tempo, professori che obbligavano all'acquisto delle loro monografie appena proprio l'ammissione all'esame. Diciamo che questi sono esempi banali di un sistema universitario ancora baronale, preistorico, in cui i professori... Preistorico è un bel aggettivo. Sì, perché i professori proprio, li definirei pluricentenari. Esistono ancora e regnano purtroppo incontrastati. Il punto più importante è che non si curano proprio del mondo reale al di fuori dell'ateneo. Come tanti miei coetanei, sono ancora convinta che ogni persona possa inseguire i propri sogni per trovare la sua strada a noti. Ai sogni vuoi credere, ma in Italia trovi solo porte sbarrate, non una ma tante. Partiamo, restando in ambito linguistico, dagli ossimori. Qual era la frase tipo che ti sentivi ripetere ai colloqui? La classica frase era: siamo alla ricerca di giovani neolaureati ma con esperienza. E questo mi sembrava proprio una vera e propria antitesi, perché se pensiamo come faccia un neolaureato appena uscito dall'università ad aver maturato già esperienza, oppure ancora cerchiamo giovani dinamici con costante voglia di imparare, che poi tra le righe significava giovani disposti a lavorare per un rimborso spese mensili di poche centinaia di euro. Se ti può consolare, molti annunci della garanzia giovani sono esattamente così ed è un ennesimo controsenso. Ma i controsensi non finiscono qui, a un certo punto scopri persino di essere overqualificata. Quando? Sì, esatto, mi è capitato durante un colloquio per l'ennesima offerta di stage, questa volta era presso una società di assicurazioni sugli infortuni rivolta ai turisti stranieri in visita a Verona. E nell'annuncio si richiedeva la conoscenza della lingua inglese per gestire proprio la comunicazione diretta con i turisti. Quando poi però mi presento responsabile del personale con la mia laurea specialistica in lingue straniere, la conoscenza di 4 lingue e tra l'altro avendo appena terminato un contratto annuale come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Anglistica della mia università, questo con aria un po' imbarazzata mi sorride e mi dice che in verità sono alla ricerca di una segretaria, di una call center e che quindi le mie competenze vanno oltre le loro richieste. Più chiaro di così. Interessante, sì, che soprattutto a livello contrattuale la mia qualificazione professionale comporterebbe una retribuzione superiore a quella prevista, che appunto il solito rimborso speso. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Michela Franzoi, 30 anni, events officer per un teatro in Gran Bretagna. Le ha provate davvero tutte, Michela, per restare in Italia e lavorare in ambito culturale, ma il paese culla della cultura mondiale non sa cosa farsene di professionalità come la sua. Michela ha trovato l'occasione della vita in Gran Bretagna, grazie anche alla spinta del programma Leonardo. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Tu però intanto ti tieni allenata lavorando per corsi di recupero estivi di lingua, sbarchi lunario traducendo manuali di istruzioni per caldaie tedesche, avete capito bene. Allora Michela, tu che arrivi dal nord-est, che idea ti sei fatta del fabbisogno di capitale umano del tuo territorio? Che giovani cercano? La mia visione magari è semplice e riduttiva, purtroppo però anche nel nord-est le aziende cercano soltanto risorse che costino poco. In questi tempi istruzione e preparazione sono dei veri e propri problemi, per non parlare poi dell'ambizione. E non voglio essere negativa a tutti i costi, ma diciamo che se vuoi essere assunto devi semplicemente eseguire quello che ti viene detto, la retribuzione minima ed essere anche riconoscente. Devi stare diciamo al tuo posto e non dare troppo fastidio. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. A un certo punto mi sono resa conto che forse inseguire i miei sogni era un lusso che non mi potevo permettere, arrivi a scrivere. Ed è qui che arriva in soccorso un programma europeo, l'ex Leonardo da Vinci, specializzato in tirocini all'estero. All'inizio sei dubbiosa se partecipare o no, avevi 29 anni e ti chiedevi se non fosse già troppo tardi. Cosa hai scoperto invece con tua immensa sorpresa? Durante gli anni all'università appunto avevo sentito molto parlare di questo progetto Leonardo da Vinci, che era rivolto ai neolaureati. Essendo rivolto ai neolaureati, diciamo che con i miei 29 anni mi riputavo già fuori tempo massimo. Invece il giorno del concorso mi accorgo che molti miei coetanei avevano fatto proprio la mia stessa scelta. Il trend d'età infatti era tra i 27 e i 30 anni, quindi diciamo che non si trattava più di neolaureati alla ricerca di un'esperienza formativa all'estero, ma di giovani in cerca di un vero e proprio lavoro. Per farla breve, vinci uno stage di 3 mesi a Portsmouth, località inglese dell'Hampshire, unisci in un fortunato mix le tue passioni, lingue, teatro, marketing, però ti chiedo quanto è stato difficile nel concreto ripartire da zero in un contesto straniero. Ripartire da zero è sempre un po' traumatico perché ti devi ambientare a nuove situazioni, devi familiarizzare con persone sconosciute. Diciamo che qui in Inghilterra è stato ancora più difficile in quanto la comunicazione era in inglese e anche se sei comunque linguisticamente preparato i primi tempi richiedono molto sforzo. Se devo essere sincera rispetto ai contesti italiani, diciamo che qui ho trovato meno difficoltà nel riuscire ad ottenere la fiducia da parte dei miei superiori. Sorprendentemente rispetto e fiducia nell'ambiente di lavoro sono cresciute all'unisono. L'esperienza non aveva prezzo, affermi a posteriori con piena convinzione, esperienza che doveva proseguire. Infatti, che proposta hai ricevuto alla fine dello stage, ma soprattutto chi te l'ha fatta? Poco meno di un mese dalla fine dello stage, visto il successo di un festival cinematografico promosso dal teatro e di cui mi era stata affidata proprio l'organizzazione, il manager del teatro stesso, il direttore, mi chiama nel suo ufficio per comunicarmi la sua soddisfazione per il lavoro svolto. Soddisfazione che si traduce nell'offerta di un contratto indeterminato. Detto all'ufficio marketing, esatto, indeterminato. Queste erano state le testuali parole del direttore. Se ancora non hai trovato nulla di concreto in Italia, pensa seriamente a questa offerta perché si tratterebbe solo della fase iniziale per la tua crescita professionale. Immagino la tua risposta e non finisce qui, perché dopo soli 6 mesi al marketing ti vedi assegnare il ruolo di coordinatrice degli eventi culturali. Ancora più incredibile, scrivi, per questo nuovo incarico mi danno subito carta bianca per ideare e organizzare progetti internazionali. Allora Michela, non ti faccio la solita retorica domanda su quante chance avresti avuto di fare la stessa carriera qui, ma ti chiedo che effetto fa sentirsi così valorizzati fuori casa e osservare da migliaia di chilometri di distanza un paese che dei giovani non sa cosa farsene. sentirsi dire proprio che qualcuno crede in te, in quello che fai e che vuole investire sulle tue idee, prima di tutto per farti maturare a livello professionale, fa davvero un certo effetto. E ovviamente guardando l'Italia, il primo sentimento che nasce spontaneo è la rabbia, perché ti chiedi perché non ci sia nessuno a casa tua che creda in te, perché devi lasciare il tuo paese per far sì che qualcuno ti ascolti. Ma tu che, Michela, che idea ti sei fatta del declino culturale che stiamo vivendo? Di chi è la colpa? La colpa è di una mentalità troppo vecchia. Ci sono persone abituate a vivere nell'arte e nella cultura e per questo sono disinteressate a valorizzarle e a sfruttarle a livello economico. Se a questo poi aggiungiamo che fondazioni, musei, teatri, centri di cultura eccetera sono sempre gestiti dalle stesse persone, ecco, il quadro verso la catastrofe è proprio completo. Michela, tu definisci l'Inghilterra all'avanguardia nella promozione e nello sviluppo culturale. Cosa dovremmo imparare da loro? Gestire il prodotto culturale come un vero e proprio business. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Purtroppo con rammarico, dall'estero vedo l'Italia come un paese ricco di storia e di arte e dalle molteplici potenzialità, soprattutto per il nostro settore culturale, ma forse noi stessi non ce ne rendiamo conto per una sorta di assuefazione. Mi ricordo ancora quando Tremonti diceva con la cultura non si mangia, ecco, questo mi sembra assurdo per una miniera culturale come il nostro territorio. Bisogna essere consapevoli delle nostre potenzialità come paese e attuare scelte coraggiose, finalmente, come ad esempio dare spazio ai giovani meritevoli in settori e cariche di rilievo che invece adesso purtroppo sono aperte magari solo ai figli o ai parenti o ai conoscenti dei soliti privilegiati. Ci raggiunge ora in linea Sveva Balduini, direttore dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus ISFOL. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. E dottoressa Balduini, quante altre Michela ha conosciuto gestendo l'ex programma Leonardo, ora chiamato Erasmus Plus, ma soprattutto è vero, come dice Michela, che è in crescita la porzione dei quasi trentenni che non sanno più come trovare opportunità nella penisola? Per noi è sempre un piacere sentire storie come questa di Michela, anche con, come dire, con le note critiche che esprime dalla voce dei protagonisti, perché sono comunque, nella prospettiva del programma Leonardo, una misura concreta del successo di questo dispositivo, che è uno dei principali strumenti di supporto ai giovani e alla possibilità di fare delle esperienze di mobilità transnazionale all'estero. L'età media si sta alzando, è così? Diciamo che la realtà è che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è tra i più alti in Europa. I dati in breve, secondo le vostre statistiche, oltre 45.000 giovani coinvolti in tirocini all'estero dal 2007 al 2013, oltre 606 progetti finanziati con oltre 110 milioni di fondi comunitari, 8 macro aree lavorative coinvolte, ma la vera domanda è: si torna in Italia alla fine oppure Leonardo si trasforma in una agenzia di collocamento all'estero? Le nostre indagini ci dicono che i ragazzi che partecipano a queste esperienze trovano in oltre il 20% dei casi delle opportunità di lavoro all'estero, quindi hanno la possibilità di continuare il tirocinio o comunque hanno la possibilità di stabilire all'estero dei network che possono essere loro utili per ulteriori sviluppi professionali, però poi quelli che effettivamente e definitivamente si trasferiscono sono meno dell'1%, quindi tendenzialmente i ragazzi ritornano, è chiaro che il sistema deve essere notizia. Pronto ad accoglierli. Chiaro, e si sentono valorizzati secondo i feedback che ricevete quando tornano? Si sentono valorizzati, diciamo che certamente c'è un riconoscimento sociale notevole delle competenze che i ragazzi acquisiscono all'estero. Grazie a Sveva Balduini. E domanda di rito per Michela Franzoi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio per chi è dubbioso è quello di provarla l'esperienza all'estero, perché le possibilità di crescita oggi sono numerose e concrete. Come prima cosa però bisogna mettere in previsione molti sacrifici e molti momenti di difficoltà, ma soprattutto prepararsi mentalmente a contare solo sulle proprie forze, dare il 1000 per 1000 ed essere molto pazienti, perché le soddisfazioni alla fine arrivano. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un manager a Coffee International Development a Varsavia, scadenza per CV 17 ottobre, info su careers.coffee.com. Un senior legal officer per lo European Stability Mechanism a Lussemburgo, scadenza per CV 15 ottobre, info su esm.europa.eu. E infine, se siete ingegneri o scienziati, fate attenzione alla call dell'Ufficio Europeo Brevetti. È sufficiente una laurea in chimica, fisica, ingegneria o scienze naturali per candidarsi a una delle 150 posizioni che saranno ricoperte nel 2015 tra Monaco e L'Aia. Scadenze per i CV 2 e 9 ottobre, info su epo.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, diamo spazio alle lettere che ci inviate ogni giorno a giovanitalenti@radio24.it. È il turno di Marianna, con la sua valigia, una lettera che contiene una storia o l'incipit di un racconto, se volessimo vederla con una prospettiva letteraria. In realtà, come molte storie di questo nostro paese, porta a galla amare verità. Mi chiamo Marianna, ho 37 anni e sto pianificando la mia fuga da un po'. Vivo vicino a Roma, una laurea in comunicazione museale, master turistico e HR, esperienza più o meno omogenea. Tra 4 giorni, disoccupata. Sono di base ottimista, ma questo mio pilastro inizia un po' a scricchiolare. Nella mia vita ho sempre buttato un occhio all'estero, sognando su come sarebbe bello fare un'esperienza oltre confine, ma mi sa, il destino un po' mi sta prendendo per i fondelli. Nella mia esperienza lavorativa ho superato i 1000 euro di stipendio solamente 3 volte. Ho avuto sempre lavori a tempo determinato, che nemmeno facevi in tempo ad emergere, che già era finito il contratto. E arrivederci, le faremo sapere. Il suo saldo attuale è di 178 euro. Eppure non mi reputo una mediocre, oddio, nemmeno un genio, ci mancherebbe, ma ho esperienza, ho diversi studi alle spalle. Anzi, ho ripreso a studiare a 26 anni proprio perché volevo migliorarmi. Ho investito su me stessa dei soldi e meno male che ci stanno mamma e papà, sig. Ma a quanto pare, la fortuna ha scartato il mio curriculum, pure lei. Vivo sempre con la valigia in un angolo, sperando di poterla prima o poi riempire. Vedo le storie sul tuo blog e penso che, oltre al loro talento, tanto ha fatto anche la fortuna. Io sono un mancato, nemmeno tanto giovane, talento, sì, talento, un po' di fanatismo, dai, in fuga. Ogni giorno persevero nel mandare curricula, scrivere lettere di presentazione specifiche, seguire i consigli delle grandi aziende di lavoro interinale, continuo a mantenermi aggiornata, ma alla fine non riesco nemmeno ad arrivare al colloquio e poi leggo di persone che sono arrivate negli Stati Uniti. Mi sa che mi tocca iniziare a scavare per arrivarci. Spesso penso di aver sbagliato prima di tutto gli studi. Ho studiato comunicazione nei musei. La mia valigia è lì che mi guarda speranzosa. Io ricambio con affetto e per ora ci sto mettendo i miei sogni. Sono ottimista e me lo ricordo ogni giorno. Anche se non sono più una giovincella, penso che l'occasione può arrivare in qualsiasi momento. In Italia i talenti non vogliono farli esistere, fanno tappezzeria e fanno bene a scappare se possono, perché c'è solamente frustrazione. E la meritocrazia è una parola che giace nel vocabolario, a impolverarsi. Un motivo per restare o tornare. I dottori di ricerca in azienda per apportare competenze qualificate e intensificare le relazioni tra imprese e università è l'obiettivo del progetto PhD iTalents, finanziato dal Ministero per l'Università con 11 milioni per 136 borse. I dottori di ricerca lavoreranno in imprese innovative per un periodo non inferiore a 2 anni. Vogliamo trattenere i migliori talenti dando loro la possibilità di completare la formazione d'eccellenza in imprese all'avanguardia, ha affermato il Ministro della Ricerca Giannini. Intanto il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto rivolto alle imprese con le modalità per richiedere il credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato. Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di 1 anno e un tetto annuale di 200.000 euro. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è liberalizzazioni, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di settembre, tema liberalizzazioni, quanto un'economia ingessata danneggia i giovani e le loro prospettive di carriera, come liberalizzare l'economia italiana e aprire nuovi spazi per i giovani evitandone la fuga all'estero, questo governo ha fatto abbastanza? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.